America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. We're going to have a bipartisan, comprehensive, long-term deficit reduction framework. The question is what is going to be the shape of that framework? And what we're trying to do is to negotiate something that's going to be good for the economy in the short term and good for the economy in the long run. Avete ascoltato il segretario al tesoro americano Tim Geithner, è stato molto chiaro, non vi preoccupate, l'America non andrà in bancarotta, non andrà in default. Perché? Beh, perché ha anticipato che c'è un negoziato in corso guidato dal vicepresidente degli Stati Uniti Joe Biden e questo negoziato sta mettendo a punto un accordo quadro. Questo accordo quadro stabilirà dei punti di contatto, di intesa fra i democratici e i repubblicani per poter superare l'impasse sull'indebitamento e sui tagli al disavanzo pubblico degli Stati Uniti d'America. Attenzione, un accordo quadro non significa delle azioni immediate o precise, ma consentirà di andare al voto entro il 2 di agosto e soprattutto consentirà di innalzare il tetto sul debito che è già stato tecnicamente superato e al di là del 2 agosto avrebbe messo, in mancanza di una soluzione, di un voto positivo, gli Stati Uniti appunto in posizione di default. Abbiamo con noi ai microfoni di America 24 Vito Tanzi, e direi che Vito Tanzi è il personaggio ideale per discutere di queste cose. È stato capo del Dipartimento Fiscale del Fondo Monetario Internazionale, insieme abbiamo seguito anni fa altre crisi fiscali sia di paesi industrializzati che di paesi emergenti e dunque lo saluto. Buongiorno Vito. Buongiorno Mario, come va? Tutto bene, ci ritroviamo di nuovo al capezzale di qualche economia. Stranamente parliamo dell'economia americana. Ecco Vito, diciamo la verità, appena qualche anno fa forse non avremmo potuto pensare che c'era un rischio di default degli Stati Uniti d'America. Ma un rischio di default no, ma c'erano già problemi da parecchio tempo. Mi ricordo che nel 2003 avevo scritto un articolo nel Financial Times in cui dicevo che i conti pubblici cominciavano a peggiorare di parecchio e menzionavo gli Stati Uniti. Pensavo che c'era una possibilità di crisi fiscale a un certo punto nel futuro. Naturalmente sono passati 7-8 anni, quindi le cose sono peggiorate in questo periodo. Secondo te questo progetto di cui ci ha dato notizia ieri Geithner, questo accordo quadro, e cioè entro la prossima settimana, le prossime due settimane, il gruppo sotto la guida del vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, raggiungerà un accordo, sì. Dopodiché si andrà a Camera e Senato perché sia ratificato dal Congresso entro il 2 agosto. Ecco, quindi dovrebbe esserci un minimo di credibilità politica. Tu pensi che questo consentirà subito dopo le elezioni del novembre 2012 di partire poi per una ratifica o per una trasformazione, per una traduzione in un atto concreto di questo accordo quadro? Ma adesso ti dico la mia preoccupazione, anticipando che sono pessimista per natura. Abito negli Stati Uniti da 50 anni e non ho mai visto un accordo così rapido e così importante, specialmente quando le divisioni dei gruppi sono enormi. Come sai, i repubblicani vogliono ancora abbassare le tasse, sebbene le tasse americane in questo momento sono a livello del 1960. I democratici vogliono ancora aumentare le spese, quindi c'è ancora una differenza molto grande. L'accordo quadro rischia di essere così generale di non avere denti, come si dice in inglese. E poi c'è il problema, come dicevo, che nella migliore delle ipotesi stiamo rimandando l'aggiustamento fiscale per due anni, con un deficit annuale di 10% e un bisogno enorme di prendere prestiti. Questo non mi sembra che sia qualche cosa che uno potrebbe essere ottimista. E questo si tradurrà in che cosa, secondo te? In una diminuzione del valore del dollaro, per esempio? Il dollaro, con tutti i problemi che c'ha, ancora rimane il punto di riferimento per molti paesi del mondo. Ma sicuramente ci può essere un effetto sul dollaro. E questo è successo mentre l'Europa ha tutti questi grossi problemi. Quindi uno si immagina cosa sarebbe successo se non ci fosse stato il problema della Grecia, dell'Irlanda, del Portogallo, eccetera, in Europa. Ecco, parliamo di questi problemi europei. Geithner ha anche espresso un desiderio, ha detto che l'Europa dovrebbe parlare con un'unica voce dal punto di vista fiscale. Concordi? Concordo. d'accordo con questo, ma vorrei anche fare il commento che non so chi parla negli Stati Uniti con una voce, perché c'è una cacofonia di voci anche qui, quindi questo problema non è un problema puramente europeo, ma sono d'accordo sul principio che sarebbe molto più utile se ci fosse una voce unica in Europa. Non so se arriveremo mai a questo punto da dare questo potere a questa voce europea. Però il poter equiparare a una banca centrale europea un, diciamo, ministero delle finanze europeo forse sarebbe un passaggio importante. Sarebbe sicuramente un passaggio importante, ma bisognerebbe dare molto potere politico a questo ministero. E tu glielo daresti? Io probabilmente sì, ma non so molte persone che lo farebbero. Veniamo alla crisi greca, veniamo alla crisi europea. Allora, io ricordo, abbiamo vissuto alcuni di quei momenti insieme, la crisi del 92, per esempio, quando ci fu la spaccatura del meccanismo dei cambi europeo, ci si rese conto che spendere decine di miliardi di dollari per sostenere un cambio che non aveva alcuna realtà sul mercato era inutile. La domanda è: non è altrettanto inutile spendere centinaia di miliardi di euro per sostenere una Grecia che tecnicamente è fallita? La risposta è sì, dal punto di vista europeo sì, dal punto di vista della Grecia non so se la Grecia avrebbe dei vantaggi a uscire dall'euro, perché una volta che esce dall'euro tutti i crediti saranno bloccati, non soltanto per quest'anno, ma per molti anni. Avrebbe difficoltà le esportazioni, perché spesso le esportazioni devono essere finanziate da crediti dalle banche. Presenteranno problemi enormi. Quindi la risposta è che dal punto di vista europeo sì, sarebbe meglio sbarazzarsi della Grecia in questo momento, ma dal punto di vista della Grecia sarebbe un disastro. Da un punto di vista pratico, il progetto che è in discussione, il progetto per aiutare la Grecia con altri 100 miliardi di euro, complessivamente si parla di un pacchetto di 300 miliardi da quello che hanno fatto prima, quello che dovranno fare, servirà o no secondo te? Ma servirà e moltissimo se la Grecia riesce a fare le decisioni politiche ed economiche che dovrebbe fare. Sicuramente la spesa pubblica in Grecia a questo momento è molto molto più alta di quando lo era 15 anni fa. Probabilmente le imposte possono essere aumentate, come ci sono stati un sacco di articoli che hanno detto che ancora si parla di combattere l'evasione fiscale, ma in pratica si è fatto molto poco. Quindi effettivamente il problema è che la Grecia fino a questo momento ha detto di fare molte cose, ma ha fatto molto di meno di quanto ha promesso. Per l'Italia che prospettive vedi? Tremonti fino a questo momento ha fatto un buon lavoro da quel punto di vista macroeconomico, quindi ha cercato di mantenere, ma naturalmente l'Italia rimane ancora con problemi di un grosso debito pubblico, di un indebitamento netto che rimane ancora molto alto, con una crescita economica molto ridotta, quindi non possiamo abbandonare i sacrifici. E per l'euro? L'euro continuerà ad esistere o c'è un rischio che questa bufera lo scardini? Fin quando la Germania, la Francia, l'Olanda e altri paesi rimangono fedeli all'euro, credo che l'euro continuerà, ed è stato un progetto storico che da molti punti di vista ha dato molti benefici, quindi sarebbe una tragedia davvero se l'euro affrontasse dei problemi molto grossi che lo porterebbero alla sua rovina, no? Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Il 28 giugno esce Rave on Buddy Holly, un album tributo dedicato alle icone del rock and roll. In anteprima da questa compilation vi propongo di She and Him, Oh Boy. Stars appear, shadows fall, you can hear my calling, a little bit of love and makes everything right. I'm gonna see my baby tonight, all my love. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24